Italia in controluce. Bene, buon pomeriggio, sono le 13:34 minuti e 22 secondi e stai ascoltando Radio 24, il Sole 24 Ore, in particolare Italia in controluce. È un programma quotidiano con due edizioni, 6:30 e 13:30, che vi raccontano l'Italia. In studio Daniele Biacchessi. Vitelli, sponda orientale del Golfo di La Spezia. Dalla collina puoi osservare la bellezza del Golfo dei Poeti, Porto Venere, l'isola di Palmaria. È stato così da anni, fino a quando gli scavi delle discariche abusive hanno distrutto uno spicchio d'Italia. Sostanze tossico-nocive ammassate una sull'altra in un groviglio difficile da sbrogliare. Per quello scempio ambientale si è tenuto in questi giorni un processo. Ditemi com'è andata. Tutti assolti. Il reportage di Andrea Ferro. Vitelli è una località nel comune di Spezia, ancora situata al confine con il comune di Lerici, una bellissima località panoramica che guarda il mare e che però negli ultimi 30 anni è stata devastata da una serie di installazioni di tipo industriale, in gran parte impianti di smaltimento di rifiuti. Una patumiera con vista affacciata sul golfo che nell'Ottocento i poeti inglesi Byron e Shelley sezionavano a nuoto e poi decantavano nelle loro liriche. Spicchio di Liguria di una bellezza sfacciata, sul quale da quasi 40 anni incombe un mostro, a lungo sconosciuto e via via lievitato in profondità fino a diventare troppo grande per essere scacciato. È la storia di una discarica che nel tempo ha ingurgitato veleni e misteri aggrovigliati sul business più maleodorante e ambiguo, quello dei rifiuti tossici, una tavola apparecchiata senza regole per soddisfare appetiti forti. Per anni c'è chi non poteva sapere di Pitelli e di quei crateri riempiti di materiali di ogni forma e sostanza, ma ha fatto finta di niente. Già nel 1984 un pretore aveva provato a spezzare l'immobilismo. Si chiama Rocco Attinà, ora è in pensione. C'era questa zona di questa discarica dove scorreva su questo costone un torrente Canalone. Lì gli avevano autorizzato una discarica, ma selvaggia, diciamo, perché in sostanza quando il torrente aveva l'acqua portava giù tutti i rifiuti, il percolato, eccetera, nelle zone sottostanti e fino al mare. E quindi ci furono delle segnalazioni dei vigili urbani e del laboratorio provinciale che segnalavano questa situazione. Così sia con riferimento alle leggi sul demanio idrico, sia in base alle norme sulla tutela delle bellezze naturali. Insomma, parve opportuno fare un sequestro per bloccare questa situazione. Quindi scatta il sequestro e si impone ai gestori l'adeguamento del sito alle caratteristiche previste dalle vaghe normative dell'epoca. Furono presentati vari progetti anche al demanio, al comune, alla provincia, eccetera, per sistemare soprattutto il corso d'acqua e per realizzare anche un sistema di canalizzazione delle acque piovane e una vasca per il percolato, in modo che tutto il percolato di questa discarica non finisse nel torrente. Nel corso di questi lavori, quando erano già a buon punto, ma era ancora tutto sotto sequestro, io poi passai su mia domanda a fare il giudice in tribunale, questo a luglio dell'85. Dopo pochi mesi il sequestro viene revocato e per anni a livello istituzionale nessuno si preoccupa più di quello che succede sulla collina di Pitelli, finché a qualche centinaio di chilometri di distanza un'altra procura apre un'inchiesta. Di nuovo la voce di Roberto Lamma, avvocato ambientalista. Il processo di Pitelli è un processo che nasce nel 96, fine ottobre 96, quando la Procura della Repubblica di Asti, indagando su questioni che riguardavano appunto quella città, scopre un traffico illecito di rifiuti a livello nazionale ed oltre. La discarica è nuovamente sequestrata, gli atti passano alla Procura della Spezia, sopralluoghi, analisi, carotaggi nelle viscere di una collina che ora solo a guardarla fa paura a tutti. Il caso finisce in Parlamento, l'emergenza è conclamata come a Porto Marghera, più di Porto Marghera. Tanto è grande questa patumiera che non si immagina neppure come svuotarla. L'avvocato della regione si è divertito amaramente, diciamo, a fare il computo, a calcolare in metri cubi quanti erano i materiali abbancati solo nella discarica della contenitore trasporti, cioè quella per cui è stato fatto il processo, perché poi ce ne sono molte altre nelle immediate vicinanze, e praticamente era più del Palazzo di Giustizia di Spezia, compattato e cubato, senza vuoti, tutto pieno. Non so se ha calcolato che erano 11 campi di calcio in metri lineari, quindi quantità enormi, insomma centinaia e centinaia di migliaia di metri cubi di materiale. Il sospetto è che a Pitelli abbiano portato di tutto, ma proprio di tutto. C'è chi ipotizza collegamenti con le navi dei veleni che negli anni Ottanta al porto di Marina di Carrara, distante pochi chilometri, caricavano gli scarti tossici delle industrie del nord Italia. Nella sua relazione conclusiva, il sostituto procuratore Maurizio Caporuscio ha elencato le sostanze che hanno impregnato il terreno della collina. Residui petroliferi, fanghi, ceneri, scorie, rifiuti da demolizioni navali, morchie, rifiuti liquidi e melmosi, sostanze catramose, sostanze oleose contenute in fusti ancora integri. E ha scritto testualmente: per il tipo di rifiuti discaricati in modo del tutto incontrollato e per l'assenza di qualsiasi misura di salvaguardia, la discarica rappresenta un pericolo per l'ambiente e per l'igiene. Ma gli studi epidemiologici li dovrebbero fare gli enti pubblici, perché sono gli unici che sono, diciamo, legittimati dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista tecnico, a poterli fare. Uno studio epidemiologico si deve fare nell'arco di un tempo molto lungo, attraverso delle metodiche standard che devono essere certificate da istituti che hanno una loro competenza. È fuori discussione che un'area così vasta, in cui ci sono dei materiali sicuramente dannosi per la salute, non può non creare allarme. No? Il processo si è aperto, ma via via molti imputati sono usciti di scena. Questo processo all'inizio prevedeva una serie di indagati e imputati per reati contro la pubblica amministrazione, segnatamente corruzione, falso e abuso d'ufficio di amministratori e funzionari tecnici di vari enti pubblici, che erano accusati di avere favorito questa galassia di società che fanno capo a Duvia. Ora poi io semplifico ovviamente per capirci, insomma, non è solo Duvia ma anche altri imprenditori nelle loro pratiche amministrative eccetera. Tutte queste posizioni non è che sono esitate attraverso sentenze di assoluzione, ma sono uscite dal processo perché in virtù di una serie di norme, diciamo, recentemente introdotte nel nostro ordinamento, parlo degli ultimi 15 anni, da quando sono c'è una determinata situazione che noi tutti conosciamo nel nostro ordinamento penale, in virtù di una serie di normative, soprattutto della cosiddetta legge Cirielli, sono estinte per prescrizione. Per gli 11 imputati accusati a vario titolo di disastro ambientale, il PM ha chiesto condanne per complessivi 42 anni di reclusione. Nei giorni scorsi la sentenza. Visto l'articolo 530 capoverso, CPT, Assole, Andreani Antonio, Andreoli Cassandro, Bertolla Franco, Bertusi Attilio, Forzani Ettore, Forzani Roberto, Duvi Orazio, Marzani Carlo Antonio, Motta Giancarlo, Bolotti Ero, stesso Murigo Pier Giorgio, tra i rimanenti reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste. Tutti assolti, quindi amarezza e sconcerto da parte di Legambiente per il sindaco della Spezia Massimo Federici. La discarica di Pitelli ha prodotto una gravissima ferita per il territorio, al di là di qualsiasi sentenza. Il principale imputato era l'imprenditore Orazio Duvia. Nei suoi confronti il PM aveva chiesto 6 anni. Andrea Corradino è il suo avvocato. Nel mio intervento ho sostenuto che il capo di imputazione, così come viene contestato, cioè il disastro ambientale doloso, non sussiste, perché in realtà l'istruttoria che è stata svolta, l'istruttoria dibattimentale, ma anche le perizie che sono state fatte, è stato fatto un incidente probatorio lungo che è durato 1 anno e mezzo, è risultato che nel sito non c'è assolutamente, con la compromissione, con la grave compromissione ambientale delle componenti ambientali dell'ecosistema, che era stato tanto all'epoca, che era stata anche dal punto di vista giornalistico evidenziata, con delle ipotesi che poi non hanno trovato assolutamente riscontro nel processo. Cioè le analisi, abbiamo portato i dati, quindi le analisi dell'acqua, dei suoli stessi, dell'aria, fatte non solo nel recente probatorio ma dalla stessa ARPAL, hanno evidenziato come a Pitelli, in relazione a queste discariche che vengono contestate, non ci sia nessuna grave compromissione. Sul caso di Pitelli si incrociano un passato sregolato e un presente sul quale si scaricano i buchi normativi che hanno consentito di ingigantire mostri di questo tipo. C'erano delle discariche autorizzate. La prima è stata autorizzata nel 1979 per residui di lavorazioni industriali, quindi all'epoca non era vigente una normativa specifica sui rifiuti, perché la prima è entrata in vigore alla fine dell'82, le norme tecniche nel luglio dell'84, la 915, quindi in quegli anni lì la gestione dei rifiuti avveniva come avveniva in Italia, cioè le discariche dei risoli, dei rifiuti solidi urbani erano discariche a cielo aperto, dove spesso i rifiuti venivano bruciati. bruciati e le discariche dei rifiuti solidi ambientali, spesso, di rifiuti industriali, spesso erano come quella lì, anzi questa era comportata, portato anche gli atti, ad esempio come un esempio di discarica controllata rispetto a quella che era la normalità, cioè le discariche incontrollate di quegli anni. Poi è chiaro, se le cose, cioè se tutto viene non contestualizzato ma giudicato con gli occhi di 30 anni dopo, soprattutto a livello ambientale, con 4 leggi che sono cambiate, appunto, e una sensibilità generale ambientale mutata, è chiaro che i giudizi anche sulle politiche ambientali, quindi sulle scelte politiche ambientali, possono essere ben diversi. Ma dal punto di vista proprio penale, tra l'altro, il reato che viene contestato non sussiste per questo. 13:44 minuti, grazie ad Andrea Ferro. Questa è la storia di Pitelli, di uno dei luoghi più belli del nord del paese, distrutto dagli scavi delle discariche abusive, e soprattutto in un processo che ha visto tutti i responsabili, secondo l'accusa, assolti. Italia in controluce termina qui, era la seconda edizione, torniamo domani ancora con nuove storie, nuove voci. Vi ricordo Facebook, Twitter, radio24.it, il nostro sito dove trovate il blog, e poi la mail controluce radio24.it. Torniamo domani 6:30.